get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. E buonasera a tutte. Anche questa sera ce l'abbiamo fatta ad iniziare con qualche problema. Io mi sono dimenticata il CD delle sigle a casa, non ho portato il telefono, per cui chiedo venia. Giuro, ascolterò a casa tutti i messaggi che manderete per questa serata e io spero che ce ne saranno tanti, perché sarà veramente, veramente interessante. Allora, come avrete potuto capire, come al solito, dai nostri errori, quella che state ascoltando è la nostra 257esima trasmissione e noi siamo il coordinamento lesbiche romane e stiamo parlando attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, come ho appena detto. In radio siamo io che vi sto parlando, Caterina, e con me c'è Stefania. E abbiamo un ospite graditissima ancora una volta con noi, Alessia Muroni. Ciao. Ciao, una delle nostre scrittrici preferite. Parleremo insieme a lei del suo libro e del suo lavoro di scrittrice e giornalista. Condividiamo con Alessia il progetto Kesbilè, insomma siamo insieme in attività culturali per le donne e le lesbiche. Buon ascolto a voi, a tutte, e se volete intervenire fatelo pure, nonostante io abbia dimenticato a casa il telefono. Ripeto, leggerò tutti i messaggi appena torno e glieli riporterò fedelmente ad Alessia. Io direi adesso di ascoltare un brano musicale. E visto l'argomento di cui parleremo questa sera, ho cercato un brano un po' datato, se vogliamo. È di Melissa Etheridge, di qualche anno fa, e si intitola Your Little Secret. Just like you, you move when she's not looking, baby. One sugar ain't enough for you, but you're taking out your lungs, you're burying your bones before your colors blow. You better take it home. Secret, secret, secret. viaggio dal Piemonte alla Sicilia. Inizia così l'intenso libro d'esordio di Alessia Muroni, Le circostanze dell'amore. In un'Italia da poco unita incontriamo Guglielmina che con la sua famiglia, i nobili Carmontel, sta per raggiungere il luogo dove si terrà il matrimonio di suo fratello Federico con Sofia Dalmaviva, dell'alta nobiltà siciliana. Guglielmina è una giovane ragazza che ha appena raggiunto l'età da matrimonio, destino segnato che non sembra minimamente messo in discussione da nessuno dei suoi parenti. Si distingue dalle sue coetanee per aver ottenuto dai genitori il permesso di studiare botanica all'università. Del resto i Carmontel ci appaiono subito anticonformisti. La madre Clotilde tiene in mano le redini della famiglia, è una donna decisa ed energica. Il padre Monaldo è remissivo e chiuso nel suo mondo di collezionista, la nonna Hortense ironica e dolce. Più avanti conosceremo Federico, il promesso sposo, rigido e arrogante, stretto nella gabbia dorata delle convenzioni sociali. Il primo accenno fuggevole ad Angelica è un apprezzamento ai bei cavalli che servono per raggiungere la destinazione. Sì, perché è proprio Angelica ad occuparsi della scuderia e sorge già nel lettore e lettrice la curiosità per una donna con un'occupazione maschile. Accompagniamo quindi Guglielmina sulla strada che la conduce verso Angelica. Angelica è una giovane donna, è già chiaro ai genitori che probabilmente non si sposerà. Si occupa appunto della scuderia di famiglia, aiuta il padre nella gestione delle varie proprietà. Insomma, è evidente l'abilità e la propensione della ragazza per i compiti definiti maschili. Ci appare libera e affascinante, gode di libertà per alcune donne impensabili, ma è anche avvolta da un dolore che solo lo scorrere delle pagine svelerà. Ma non è appunto solo l'incontro delle due. La famiglia di Angelica è più classica, diciamo. La madre Eleonora è attentissima alle convenzioni sociali. Il padre Ruggero più aperto, appassionato di botanica, è l'unico a conoscere veramente fino in fondo la figlia Angelica. Sofia, la sorella più piccola, è la futura sposa, matura e intelligente. È appunto non solo l'incontro di queste due ragazze, ma anche delle loro famiglie. L'una piemontese, schietta, anticonformista, che guarda al futuro, l'altra sicuramente più classica e compassata nelle idee, ma calda e accogliente. Il libro inizia lento, giustamente descrittivo, ma il lettore esperto capisce subito che la scintilla ci sarà all'incontro di Guglielmina e Angelica. I primi sguardi, le parole, le discussioni, poi la passione che nascerà tra le due, le lasciamo alle lettrici. Noi ci fermiamo qui. Adesso Nicolette ci legge qualche brano. Un'altra foto aveva colpito Angelica. Sola, in piedi accanto ad un tavolino, Guglielmina posava in occasione del ballo di maggio offerto dai sovrani alla Venaria Reale. Il corpo minuto era stretto nel pizzo dell'abito bianco, la cui elegante coda si allargava a ventaglio di fronte ai suoi piedi. I capelli erano intrecciati in un'alta crocchia, sottolineata da un tralcio di piccole orchidee. Il collo era chiuso in un collare di perle e le spalle emergevano delicate dallo scialle drappeggiato ad arte. Lo spirito ribelle della ragazza traspariva nell'arruffato bouquet da cintura, insolitamente composto di piante non propriamente riconoscibili, tanto che solo il barone era riuscito a distinguere le diverse varietà, alcune delle quali esotiche, altre semplicemente impensabili per un mazzolino da ballo. Tutti avevano trovato assai divertente che la fanciulla portasse in vita una piccola mostruosità vegetale e anche ora un sorriso tornò ad affiorarle sulle labbra. All'improvviso si sentì più tranquilla. Si rialzò, chiamò Monello e tenendolo per le briglie si avviò a piedi verso la villa. I didn't know about things, and he... Guglielmina arretrò verso la stanza, poi si riavvicinò piano al vetro cauta, nascondendosi dietro il bordo della tenda. Ferma nella luce, le gambe salde intorno ai fianchi dell'animale, Angelica stava cercando di risistemare i capelli in una crocchia. Le braccia alzate mettevano in risalto il busto chiuso nella giacca di raso nero ben tagliata. La vita aveva una piacevole curva morbida. I fianchi e le gambe strette nei pantaloni rivelavano muscoli forti e una lunga pratica di esercizio fisico. Impaziente, strinse fra i denti il frustino che la ostacolava nei movimenti e in qualche modo finì di sistemarsi i capelli. Si chinò a sussurrare all'orecchio del cavallo, gli porse qualcosa da mangiare, poi battendogli leggermente sul garrese lo guidò verso un nuovo esercizio. Prego, usciamo, c'è il sole, fa caldo, prendiamo le biciclette. Ma che succede? Ha risposto la mia amica Cinzia. Questo libro mi ucciderà, non riesco a smettere di leggerlo. Sembra stregato, ma mi mancano ancora un centinaio di pagine, mi bruciano gli occhi, stanotte ho fatto le due, aiuto! Ecco, questo è quello che provoca la lettura delle circostanze dell'amore. Questo rimanere incollate al libro, invischiate nella trama, è dovuto per me a vari ingredienti che Alessia ha miscelato nella costruzione della vicenda. La ricerca storica è la ricostruzione degli ambienti, dei caratteri dei personaggi così perfettamente calati nell'epoca in cui vivono. La descrizione che ci fa apprezzare i luoghi, gli abiti indossati, ci fa capire come effettivamente viveva, amava e pensava la nobiltà dell'epoca, ma soprattutto Guglielmina e Angelica. Come ha scritto nella postfazione l'autrice, ci si innamora di loro. Mi sono chiesta perché non si riesce a staccarsi dal testo. La risposta è che Guglielmina e Angelica sono vive, escono fuori dalle pagine del libro. Pensano, vivono, amano davanti ai nostri occhi. Le loro scelte sono le nostre scelte, quelle che abbiamo affrontato, quelle che probabilmente faremo. I loro desideri, le loro paure sono le nostre. Però devo chiedere scusa ad Alessia, sì, perché non ho fatto attenzione alla ricostruzione storica, agli abiti, agli altri bei personaggi magnificamente ritagliati dall'autrice. Ho divorato le pagine e mi accingo quindi a una seconda lettura, stavolta più attenta, promesso. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito in contatto con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22 oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 in poi al numero 06 6864 201. Questo è anche un telefono fax e segreteria telefonica oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale delle Donne via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web www.clrbp.it. Anche per oggi aspettiamo molti sms. Il numero è 339 8536 270. Giuro che te li mando tutti, Alessia, tu abbi fede che se arrivano io te li mando. Grazie. No, ma io devo confessare una cosa, mi sento molto vicina a Guglielmina, perché il libro comincia con Guglielmina che fa un trasloco, io l'ho appena fatto e mi sono praticamente persa il telefono, i cd, cioè veramente è stata una cosa epocale venire qui questa sera, per cui giuro che te li mando. Voi scrivete, abbiate fede, vi rileggo il numero del nostro cellulare, che è 339 85 36 270. Ripetiamo anche il telefono della radio, che è 06 49 17 50, che risponderemo fino alle ore 22. Bene, ripasso la parola. Allora, se io adesso faccio una cosa, vediamo se mi riesce al volo, siccome il libro, se non sbaglio, lei si è ambientata in Sicilia, giusto? Sì. Allora mando una canzone di Carmen Consoli cantata in siciliano, che si intitola A Fenestra. Finesce, è vero, gente che fuori è passata, gente bella, l'aria allegra, mogiosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu li ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri le cabbabrio, sciacca granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara classe in do barrare. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata dai banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dici ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si passa, gente casa pasce in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa palle in canna sarda, ma ci fa trovare a tavola con sata cucumana. Chi c'ha vidi d'Italia, è una vidi altra a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a travagliare, quando io un vecchio indispettito avevo che già ero vitro, io ci dico, ma scusati, chi sta la mia casa e stai o ne mi pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nantroni case trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciati e ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchia detto leone. Pace coppola, balbette e mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vidi d'Italia, è una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venire un poco a mare, con io un vecchio dito così anche mi parete scritto io. Casa panzuttare, sogno sembra la finestra, è vero aranni civiltà che sta donne turche e pre cristiani si stringevano la mano, tanno si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di bellezza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato a ieri, oggi forse che potesse ritornare, sorgevamo semi buono di chi andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi d'Italia di una vita altro a cui pensare, almeno un poco di che fare e da venire a ballare e date quattro saute e mi scede giusto per sbagliare, io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta che volete consigliare. Allora, io anche ho sentito il bisogno di scrivere qualche cosa, perché dopo aver letto il libro, mi è capitata la stessa cosa che è capitata a Stefania, non riuscivo a smettere. Diciamo che Alessia è la responsabile di alcune mie notti insonni, perché mi addormentavo proprio perché il libro mi cadeva sul naso, ma non riuscivo proprio a smettermi. E comunque, leggendo questo libro, mi sono sentita presa per mano e condotta in un mondo pieno di pizzi e merletti, carrozze e governanti, buone maniere e galateo, improvvisamente catapultata in un'Italia d'altri tempi. Le storie delle tue protagoniste mi hanno catturato e con loro ho condiviso, riconoscendole, molte sensazioni descritte. La cosa che mi ha sorpresa è stata quella di trovarmi in sintonia con entrambe le protagoniste e, se non fossero state apparentemente così tanto diverse da loro, non mi sarebbe sembrato poi tanto strano. A volte mi sentivo come Guglielmina, a volte come Angelica. Ma le emozioni non hanno latitudine, epoca, dialetto, casta, non scelgono il sesso o l'età. Non hanno spazio o tempo. Le emozioni esistono e basta. Non è rilevante la tipologia o l'ambiente della contestualizzazione. Incide invece, sempre simile a se stesso, il non essere previste, non contemplate, non ammesse. Ingombrante e straripante da sempre è la cultura della negazione, che inevitabilmente porta alla rotta di collisione tra quelli che sono i nostri desideri e ciò che, invece, ci si aspetta da noi. Conosco l'annientamento, la voglia di reagire, il sentirsi inadeguata, l'ambizione di affermare se stessa, la fame di passione, la voglia di condivisione, il desiderio, la forza che esplode quasi inaspettata e la gioia di vivere. Ho riconosciuto tutto questo in ciò che le protagoniste hanno vissuto. Sono molto più simile a queste due figure di quanto io stessa potessi immaginare. Una storia avvincente, entusiasmante e passionale. Il finale, poi, quasi un riscatto, una vittoria, un incoraggiamento e una conquista. Un libro bello e scritto bene che, una volta terminato, provoca la delusione per il fatto di essere finito. Ti viene la curiosità di seguirle, di veder crescere il loro amore, di guardarle, forti e fiere, continuare ad affrontare il mondo. Ma forse è giusto che invece sia finito proprio nel punto in cui si riprendono la vita. Poi, per non diventare ingerenti, si debbono lasciare andare. Ma c'è un altro regalo che questo libro mi ha donato. Nei giorni successivi non riuscivo a smettere di pensare. Già, perché se è vero che le emozioni non chiedono il permesso di manifestarsi e quindi, per il fatto di esistere, vivono in noi, diventa purtroppo invece fondamentale e determinante il contesto entro il quale si manifestano. Guglielmina e Angelica hanno passato dei brutti momenti, ma alla fine riescono ad essere vincenti. Purtroppo non soltanto per la loro caparbietà. Sono infatti entrambe ricche, colte, benestanti e con la prospettiva di una autosufficienza economica. Nascoste nelle pagine però ci sono altre realtà, camuffate tra gli elementi di contorno, che invece fotografano perfettamente la condizione delle donne. Non riesco a non pensare all'amante clandestina, barattata come merce di scambio per saldare un debito di gioco del padre, dilaniata costantemente tra desiderio ed obbligo, passione e dovere, per sempre legata ad un uomo che dispone di lei a suo piacimento, storia ancora oggi molto comune. E non riesco neanche a dimenticare la sorte della popolana, la cui unica colpa è stata quella di ricercare il piacere che Angelica le offriva e per questo massacrata di botte dal marito. Ed anche questa storia di violenza domestica è ancora oggi molto comune. Non riesco proprio a pensare cosa sarebbe preferibile augurarle, sopravvivere alle percosse o morire. In ogni caso, così sola, l'aspetterebbe una vita di reclusione. La reclusione è la condizione che hanno subito molte donne segregate dalle famiglie e dal potere all'interno di strutture compiacenti. With all the blessings life can bring, I've always needed something. But I've got all I want and it comes to love. Strutture proprio come quella dove oggi io faccio politica, cioè la Casa Internazionale delle Donne, struttura ricca di storia e che, per me, resterà sempre il buon pastore. Amo l'idea di occupare gli spazi che una volta erano destinati alle reiette. Donne non in linea, classificate come pazze, isteriche, pericolose e malate, soltanto perché non aderivano al modello dato. Il loro più grande difetto era quello di essere scomode, non classificabili e per nulla disposte a cambiare. Ma come non pensare anche al fratello che, sopraffatto dal bisogno di normalità, si infligge una forma atroce di autocensura, si costringe a reprimere il proprio sentire, i propri desideri, il proprio piacere, la propria vita. In cambio ottiene alla fine la tanto agognata accettazione sociale. Cosa importa se poi è morto dentro? L'unica via d'uscita, la salvezza per continuare a vivere, è la clandestinità. Quanto è comune ancora oggi. Adesso mandiamo un brano musicale delle Castelbelli Dupré, che sono un gruppo lesbico, e il brano si intitola Hot Corn in the Fire. Ho sbagliato! Eccole, le Castelbelli Dupré! That the Israelites are scorned, black Jews that bear affliction of a faith that's so wrong. Some propaganda which led the hate, they're forced to leave their own home state with families waiting on distant shores. They have to fight this damn holy war. You say you ain't gonna rescue, but when will your relief come? You say you advocate for freedom. When will you bring your people home? What you gonna do? the native and the eagle. They're now stranded refugees, trying to return to Zion. So today it only free calls. Sudan holds just a border. Adesso facciamo qualche domanda a Alessia, diciamo qualche curiosità che ci è venuta leggendo il libro. Sono pronta. Quanti libri ti sono serviti per studiare l'ambientazione del romanzo? L'epoca storica, le usanze? Ora, quanti proprio non saprei, però sicuramente preciso, tanti. Ti prego. Posso citare delle aree, tipo alla Biblioteca Nazionale, tutta l'area geografica, dove c'è una meravigliosa sezione dedicata alla Sicilia, la sezione moda e costume della sala arte, sempre della Biblioteca Nazionale. Poi, sicuramente alcuni testi, ad esempio, dopo che ho già iniziato a scriverlo, su una bancarella ho trovato Principi sotto il vulcano, di Trevelyan Rileg, che è uno studio sugli inglesi che nell'Ottocento colonizzarono praticamente la Sicilia, arrivando a controllare il mercato del Marsala. Questo era piuttosto interessante, perché era tratto dai diari delle donne di famiglia e quantomeno mi è servito molto per ricostruire anche un certo tipo di socialità, di quotidianità, di una certa classe sociale in Inghilterra. Un altro è il Flora di Bret Eliot della Royal Horticultural Society, che ha uno studio molto interessante sui più importanti testi di botanica di editoria inglese, in cui sono veramente delle cose splendide, e soprattutto lì ho trovato le prime tracce di tutte quelle illustratrici che poi hanno ispirato anche, insomma, alcuni dettagli dei lavori di Guglielmina. Ok, allora, il pozzo della solitudine è difficile. È difficile scrivere una storia lesbica d'amore di ambientazione storica senza confrontarsi col primo romanzo lesbico. Sì. Beh, un po'. E questa è una domanda difficile, nel senso che sì, sicuramente il Pozzo della Solitudine è un romanzo con cui tutte ci siamo confrontate, penso con più o meno fastidio, no? Nel senso che è proprio l'epitome del maledettismo lesbico, certo, no? Sì, sì. Quindi diciamo che pur avendolo letto anche un paio di volte, se è per questo, e pur apprezzandolo nel suo genere, diciamo che mi sono volta verso altri lidi per ispirarmi. No, certamente il tuo è più positivo e ne siamo felici, insomma. Però anche lì c'era l'amore per i cavalli, insomma, ricorda un po'. Beh, sì, beh, diciamo che c'è anche c'è un orizzonte culturale di classe condiviso, perché certo, comunque sì, parliamo di aristocrazia. Ecco, una cosa che mi colpisce molto, al di là degli stereotipi, per esempio, è che gli aristocratici siciliani, così come quelli napoletani, eccetera, erano molto inseriti nella società internazionale, quindi viaggiavano moltissimo, erano proprio assolutamente non, come dire, non insulari, non chiusi, provinciali, anzi, era frequentissimo incontrarli a Roma, sì, a Roma, certo, a Londra, a Biarritz, eccetera, era, insomma, erano molto, molto internazionali, quindi... sicuramente, ecco, ci sono degli elementi di base in comune. Ok. Guglielmina e Angelica, è giusta la lettura che ne dà la Giacobino nella postfazione del libro, cioè la visione nord-sud? Allora, io volevo porre a confronto, diciamo, delle coppie di opposti, quindi mi è sembrato naturale usare anche quello che in Italia viene usata in modo anche molto leggero, e direi negli ultimi anni più che leggero in modo molto pesante, che è questa contrapposizione, no, fra nord e sud, visti come due estremi in cui tutto il bene è da una parte, tutto il peggio possibile dall'altra. Questo però non è ovviamente la mia idea. La mia idea era quella di creare punti di contatto fra realtà diverse, diverse anche sono le esperienze delle due donne, eccetera eccetera, ma non per questo in, come dire, in opposizione, ma in impossibile armonia, ecco. Certo, ok. E allora adesso ci legge un brano Nicolette, che non vi abbiamo presentato, ed è qui con noi. Ciao Nicolette. Solo in qualità di voce leggente. Ciao. Tre grandi armadi e una scarpiera occupavano le pareti. Con stupore Guglielmina scoprì che la sobria Angelica aveva a sua disposizione, anche durante la villeggiatura, una notevole quantità di abiti e scarpe. Un armadio era stipato di sacche di mussolina che ne avvolgevano il contenuto di seducente vaghezza. Su alcune delle sacche Guglielmina riconobbe le etichette ricamate di alcuni celebri sartorie internazionali, Doucet, Redfern, il grande Worth. Il nero e il viola erano sicuramente i colori preferiti da Angelica per la sera. Mentre spiava quelle piccole meraviglie a lei ancora negate, accarezzando sete e ricami, Guglielmina si andava rilassando. Era quasi divertita da quel suo investigare. Un altro armadio rivelò biancheria, camicette, bustini, calze e altri accessori. Per un attimo ebbe difficoltà a capire. Chiuse le ante sospirando, ma la curiosità ebbe il sopravvento e andò ad aprire il terzo armadio. Per un attimo ebbe difficoltà a capire. Poi diede in un'esclamazione meravigliata. Abiti da uomo. Pantaloni, camicie, giacche, cravatte, cappelli. Un intero guardaroba maschile, tight, panciotti e fasce da smoking compresi. Angelica era dedita al travestitismo. Dovette fare due passi indietro e sedersi su un piccolo sgabello per riaversi dalla sorpresa. Sì, l'aveva vista indossare i pantaloni per andare a cavallo o lavorare nella stalla. Ricordava di aver ammirato le sue belle gambe dritte chiuse nei pantaloni da cavallo, fasciate dagli stivali, e certe camicie rigorose dal collo insolito. Solo la gonna a cui le accompagnava poteva farle sembrare da donna. Ma quello che vedeva di fronte a sé era qualcosa di completamente diverso. Osservava i plastron pieghettati e inamidati, i tessuti robusti, le cravatte. In un ripiano scoprì persino della biancheria maschile, che si affrettò a riporre colta da inaspettata vergogna. Si ricordò di un'immagine di George Sand che aveva visto su una delle riviste per bibliofili di suo padre. Anche lei vestiva così, e per quel poco che era riuscita a sapere leggendo di nascosto in biblioteca, aveva anche condotto una vita molto libera. Ricadde sullo sgabellino, inspiegabilmente turbata. Presa dallo sconforto, pensò ai suoi armadi, alle sfilze di camicette da collegiale, ai vestitini pastello, alla biancheria di cotone spesso. Quanto doveva trovarla banale, Angelica. Anche Elisabeth probabilmente vestiva così. Forse uscivano insieme godendo della bella libertà degli uomini. Forse baciavano le fanciulline ingenue come lei e poi ne ridevano. Quanto devo farle pena col mio piccolo mondo di studentessa. Allora. Tonight, 'cause I piaciuto moltissimo e quindi niente, vorrei che ce lo spiegassi. Allora, il fatto di... Dunque, in effetti a me piace molto il gioco degli abiti come possibilità di entrare e uscire da un ruolo, no? Sicuramente in quell'epoca il discorso del ruolo legato all'abito era molto più stretto di quello che non si è ai nostri giorni. Se noi guardiamo le fotografie di lesbiche note dell'epoca, so, Natalie Clifford Barney e altre, usavano spesso vestirsi da uomo perché era comunque un modo allora per segnalare qualcosa di molto preciso. Inoltre, appunto, a un certo punto viene nominata George Sand, che di cui si conoscono delle storie lesbiche, ma la Sand usava il travestimento maschile perché per lei era molto più facile viaggiare e uscire da sola la sera senza essere disturbata. Quindi diciamo che l'elemento dell'abito maschile è interessante perché a quest'epoca raggiunge il massimo della sua significanza in un contesto femminile, di un guardaroba femminile. C'è un libro che è edito dal CLI che si chiama Ladies Almanac, non so se lo conosci, sì. Dove proprio viene messo in rilievo questo aspetto. Chiaramente tutte le cose che hai detto tu sono giustissime, ma ce n'è un altro anche molto, molto particolare, che proprio per l'identificazione automatica che veniva data, come ancora oggi accade, che se sei donna devi rispondere a determinati requisiti, no? Devi avere determinati requisiti. Il fatto di vestirsi da uomo stava a significare di voler essere altro, no? Quindi era importante anche questo aspetto. Sì, era sicuramente una forma abbastanza palese di opposizione ad uno schema dato. Sì, assolutamente era e non solo, era anche un elemento che poneva la donna che praticasse il travestitismo al limite della legalità. Certo. Cioè, per esempio, una grande pittrice naturalista francese, Rose Bonheur, che era lesbica, si vestiva da uomo, ma lei aveva un permesso della polizia per vestirsi da uomo. Sì, aveva ormai, era talmente famosa che poteva permettersi di tutto, certo. Ma doveva esserle permesso dalla polizia. Sì, ma infatti questo comunque rientra sempre nella cerchia diciamo medio-alta della borghesia, ma c'erano anche delle donne che non appartenevano a quel ceto sociale, sì. Che avevano come unica possibilità di manifestare il loro essere altro attraverso l'abbigliamento che adottavano, capito? Sì, quindi sì, era... questo certo. Senti, io il tempo purtroppo non è che è tiranno, è proprio cattivo in questo contesto, però io ci tengo in modo particolare a farti confessare una cosa. Io so che con questo tuo libro hai partecipato ad un concorso e io mi commuovo quando parlo di questo libro per le emozioni che mi ha dato. Grazie. Mi devi perdonare, ma veramente me le ha proprio scatenate a iosa. E io so che hai partecipato ad un concorso e vorrei che dicessi a questi microfoni com'è andato. Allora sì, il concorso era il Women in Art Festival, l'edizione 2011, e ha vinto il concorso. E ci tengo anche a precisare che sì, ha vinto il mio romanzo, ma io ero nella sezione editi. Ci tengo a precisare che, pur non essendo il concorso assolutamente, come dire, orientato in un senso o nell'altro per principio, anche la sezione inediti è stato vinto da un romanzo di Annalisa Pardi che tratta di una storia lesbica, quindi mi è sembrato che adesso come premio, diciamo, di questo concorso ci sono una serie di presentazioni in varie città italiane. La prima sarà a Firenze nella settimana dell'8 marzo, io poi lo segnalerò sul mio sito che è www.alessiamuroni.wordpress.com. Ok, io spero che questa nostra trasmissione abbia suscitato la curiosità di tante che vorranno comprare il libro. Come si può fare per rintracciare il tuo libro? Come possono fare? È distribuito in tutta Italia, quindi probabilmente le catene più importanti di librerie, insomma, sono in grado di rintracciarlo, altrimenti si va sul sito del Dito e la Luna. che ha un link anche a partire dal mio sito, si può acquistare online come si può acquistare sui, nelle librerie online tranquillamente. Okay. Vabbè, io spero che le richieste siano tante, io le suggerisco veramente perché il libro merita, è bellissimo e come si dice sempre in questi casi, provare per credere. Quindi noi ringraziamo Alessia, ringraziamo la voce parlante Nicolette e vi diamo appuntamento fra due settimane, sì, se sopravviviamo, sì, fra due settimane, quindi buon proseguimento di serata con i programmi del martedì femminista e lesbico, e un saluto a tutte e a presto. Grazie mille. Ciao. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that. Something's got a hold on.